Giulia Mucchiarino era un aviatore e lui faceva parte dal 1936 al 1938 di una squadriglia che si chiamavano i pipistrelli delle Baleari, perché le Baleari durante la guerra civile di Spagna erano, nonostante la Catalogna e gran parte della Spagna fossero ancora sotto la Repubblica e quindi la Repubblica antifascista, le Baleari erano, diciamo, un avamposto franchista, cioè dei fascisti. E quindi Mussolini, o comunque l'aviazione fascista, aveva base alle Baleari e si autonominarono pipistrelli Baleari. Con i Savoia Marchetti, che era l'aereo, diciamo, del fascismo, lui ed altri hanno bombardato per 143 giorni la popolazione civile di Barcellona. Se voi andate a Barcellona, qualcuno forse c'è stato, ci sono in particolare alcune piazze in cui l'hanno lasciato i proiettili, fuori dei proiettili, che si vede chiaramente come non sono assolutamente obiettivi militari, come sosteneva la propaganda fascista e come sostenuto per conferimento della medaglia d'oro a Guglielmo Chiarini. In realtà sono bombardamenti sui quartieri popolari della città, in particolare quelli centrali, perché allora erano i quartieri centrali dei popolari. Quindi Chiarini è uno di questi PDM, come Reginaldo Giuliani, che ha bombardato per 143 giorni consecutivi insieme ad altri, che però a Firenze, da ricerche fatte da noi, non è intitolata nessuna via. Quindi hanno fatto questa cosa. Per di più hanno fornito supporto anche all'aviazione nazista che ha bombardato Guernica. Quello forse probabilmente tutti la conoscono un po' meglio, insomma. Quindi non hanno partecipato direttamente ai bombardamenti di Guernica, hanno fatto le ricognizioni precedenti per dire meglio bombardare lì che là, perché lì ne ammazzate di più che di là. Questo è Chiarini. E le è stato dato nella retorica fascista, cioè 205, non si sa, medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie, croce di ferro al valore civile, tutte iniziano per la sua dimostrata lealtà ai valori fascisti. C'è proprio scritto, chiaro e tondo, insomma, sul conferimento delle medaglie d'oro. Finalmente, almeno per me è così, come Reginaldo Giuliani, poi dopo la guerra di Spagna, è andato a bombardare con i gas Nervini, insomma, i gas vietati già allora dalla Convenzione di Ginevra in Etiopia. A un certo punto tentano di atterrare in un posto difficile, proprio per poi ripartire, per andare a gettare questi gas sulla popolazione civile. Un gruppo d'Arbenyok, che erano i partigiani etiopi, se ne accorgono e lo stendono, lui e altri due, ulteriore medaglia d'oro ai valori militari. Questo è Guglielmo Chiarini.